Innanzitutto uno strumento di lavoro per gli operatori economici di Milano e della Lombardia, piccole imprese, professionisti, mondo della finanza, lavoratori autonomi. Poi anche uno strumento di identità. Chi siamo? Siamo una grande potenza economica, dobbiamo avere una grande rappresentazione politica, dobbiamo in qualche modo assumere di più il ruolo di guida dell'economia del paese. E questo, diciamo, è il principale degli obiettivi. Poi anche quello di essere un po' il ponte di dialogo fra imprese e mondo delle istituzioni. Idealmente tutto il nord produttivo e comunque tutta quella parte di economia, che non sta soltanto al nord o al centro, che si misura ogni giorno con la competizione globale, fa i conti con i concorrenti esteri che non hanno certamente i nostri ritardi, che ha bisogno di decisioni immediate e corrette e che non può più permettersi il lusso di aspettare i ritardi e le inadeguatezze degli altri.